andiamo piano, ma ancora camminiamo, domandiamo. Non sono mai sicuro perché credo, e credo che sicuro il giro mi porta lontano. Andiamo piano, ma sicuramente ci arriviamo, perché è un giro che fila a tutte file, l'ho già detto con Valerio ed ero serio. Ma tu che cazzo vuoi da me? La vita è un mistero. Che bello perché è vero e va capito come sono belle ovvero sti parole dedicate. Abbiamo spento il vento, fermato la bufera, le scarpe sono nuove eppure ca non si può sta. Quando il vento è fermo, quando non si respira, le scarpe sono buone, sono pronte per viaggiare. E viaggio contro vento, vento di primavera, autunno, estate, inverno, contro vento si respira. E tutto ciò che sento è potente e leggero, ancora mi commuovo, saranno sti violini. Dedicata a tutti quelli che ci credono, dedicata a tutti quelli che si lanciano, dedicata come tutto quello che non ho mai avuto, adesso non voglio sciupare. Dedicata a tutti quelli che patiscono, dedicata a tutti quelli che non mollano, dedicata come tutto quello che non ho mai toccato per paura di sbagliare. Non servono tante parole per dire che il senso che ognuno di noi dà, quello che accade determina spesso le cose che ognuno di noi sa. Fammi parlare, mi trovo facendo e voglio approfittare e parlare chiaramente. Tutto quello che ti dico e pensa, prima di parlare, e parla con coscienza, oppure non parlare. Non servono tante parole per dire che il senso che ognuno di noi sa, quello che dice può determinare anche quello che accade, se quello che dice poi lo prova a fa. Abbiamo spento il vento, fermato la bufera, le scarpe sono nuove eppure ca non si può sta. Quando il vento è fermo, quando non si respira, le scarpe sono buone, sono pronte per viaggiare. E viaggio contro vento, vento di primavera, autunno, estate, inverno, contro vento si respira. E tutto ciò che sento è potente e leggero, ancora mi commuovo, saranno sti violini. Dedicata a tutti quelli che ci credono, dedicata a tutti quelli che si lanciano, dedicata come tutto quello che non ho mai avuto, adesso non voglio sciupare. Dedicata a tutti quelli che patiscono, dedicata a tutti quelli che non mollano, dedicata come tutto quello che non ho mai toccato per paura di sbagliare. Non servono tante parole per dire che penso che ognuno di noi dà quello che può, quello che sa, eppure quasi tutto quel che pensa. E vedi bene che non è questione di coerenza, in essenza è questione di saper campare insieme in assenza, è solo la barbarie. Non servono tante parole per dire che penso che ognuno di noi dà quello che può, quello che sa, quello che tiene, quello che dà, sorrime dedicate e sanno che il canna fa. Abbiamo spento il vento, fermato la bufera, le scarpe sono nuove eppure ca non si può sta. Quando il vento è fermo, quando non si respira, le scarpe sono buone, sono pronte per viaggiare. E viaggio contro vento, vento di primavera, autunno, estate, inverno, contro vento si respira. E tutto ciò che sento è potente e leggero, ancora mi commuovo, saranno sti violini. Dedicata a tutti quelli che ci credono, dedicata a tutti quelli che si lanciano, dedicata come tutto quello che non ho mai avuto, adesso non voglio sciupare. Dedicata a tutti quelli che patiscono, dedicata a tutti quelli che non mollano, dedicata come tutto quello che non ho mai toccato per paura di sbagliare.